Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette-otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, come promesso già ieri, oggi ci occuperemo di porti, l'occasione data era data anche da tutta la vicenda Concordia, ma ripeto, è un settore che occupa più di mezzo milione di persone, vale 3 punti percentuali di PIL, circa 45 miliardi. Ma sull'attualità invece segnaliamo l'ultimatum a mezzanotte ora americana, quindi le 6 di mattina ora italiana, scade il tempo per l'Argentina per pagare i fondi americani speculativi di hedge fund dopo la sentenza della Corte Costituzionale americana. In sostanza, se l'Argentina non raggiunge un accordo su come pagare almeno 15 miliardi, dico almeno perché potrebbero esserci poi le cause di tutti quelli che hanno aderito all'accordo argentino e adesso si vedono invece superati a destra da un pagamento totale del debito argentino, ma dicevo almeno 15 miliardi, se l'Argentina non riesce a farci capire e a far sapere non tanto a noi ma alle autorità americane come ha intenzione di pagare, tecnicamente da mezzanotte ora americana è in default, cioè non ha pagato un insieme di obbligazioni e quindi di prestiti ottenuti. Mancano poche ore, dicevo, ma sembra, almeno stando alle parole del governo argentino, che si sia vicini a una soluzione. Non vi dovrebbe essere un intervento sulle banche argentine. Lo spread argentino si è anche ridotto a 630 punti sul Treasury Bond americano. Comunque ne parleremo nel corso del programma, così come avremo anche un ennesimo aggiornamento su Alitalia. Domani è, diciamo, il giorno in cui obiettivamente deve arrivare il via libera all'accordo definitivo con Etihad, e su questo il governo ha fatto notare che le Poste hanno condiviso la posizione delle Poste, ma le stesse Poste italiane si sono dette soddisfatte della soluzione trovata, la mid company in cui entreranno. L'aumento di capitale di Alitalia potrebbe salire fino a 300 milioni di euro, ma ripeto, il numero uno di Etihad, quindi la compagnia degli Emirati di Abu Dhabi che entrerà o vorrebbe entrare in Alitalia, ha detto che il 31 luglio è la deadline, quindi la scadenza ultima per dare via libera all'operazione. Ancora l'autorità, tra l'altro, tutte le varie dichiarazioni che oggi abbiamo registrato sono positive. Anche Palazzo Chigi in una nota ha spiegato che l'esito del vertice tra governo e soci sulla vertenza all'Italia Etihad è stato un incontro proficuo che consentirà in brevissimo tempo dall'Italia di formulare una risposta all'ultima lettera di Etihad in modo da arrivare all'accordo il prima possibile. E questo è il fronte Etihad. Parleremo, dicevo, di Argentina e di Alitalia. La borsa oggi è Milano è debole, devo dire come tutte le borse europee, perde lo 0,90%, con Parigi che perde l'1,33%, Francoforte lo 0,70%, Londra mezzo punto percentuale di calo, l'America anche mezzo punto percentuale di calo. Non ci sono titoli che perdono in maniera particolarmente allarmante. Il peggiore IUX, tra quelli a maggiore capitalizzazione, perde il 2,85%, Mediaset il 2,40%, Fiat il 2,30%, World Duty Free il 2%, Exor l'1,70% come Eni e Terna e anche Luxottica. Invece sul fronte opposto notiamo la Pop Milano guadagnare l'1,60%, ST Microelectronics l'1,20%, Monte dei Paschi più 0,90%, Popolare Emilia Romagna più 0,80%. Ancora il numero per i vostri sms è 349-238-6666, la pagina di Focus Economia su Facebook. Volete sapere del rapporto di cambio? È a 1,33,79 sul euro su dollaro, quindi leggermente più basso dell'1,37, 1,38, 1,40 che abbiamo visto nei mesi scorsi, ma sempre intorno a quota 1,30. E allora adesso rapidamente le altre notizie in breve. Allora, vedo che alcuni dicono, ma insomma le imprese hanno anche il problema del costo del lavoro, delle tasse altissime e non solo della burocrazia. No, attenzione, quello che noi vediamo, avremo un nuovo ciclo di interviste con vari manager, è che sul tema del costo del lavoro, non è il costo del lavoro a essere più alto rispetto alla Germania o alla Francia, è quello che resta in busta paga al dipendente, ce l'hanno spiegato molti manager di multinazionali, a essere profondamente diverso, il cosiddetto cuneo fiscale, e più che il costo del lavoro, per carità, è la pressione fiscale sulla busta paga che è molto diversa rispetto ad altri paesi. E faccio notare che invece sulla burocrazia, ma per burocrazia intendo gli oneri impropri, quindi anche i costi della giustizia civile, le 18, adesso ne parleremo con chi opera nel settore mercantile del trasporto merci, 18 pratiche per sdoganare un container, e quindi si perde tutto il vantaggio competitivo che si ha a sbarcare a Gioia Tauro invece che a Anversa o in altri porti del nord. Quello, attenzione, ne parliamo, perché mentre la riduzione della pressione fiscale è un tema molto delicato, perché lo Stato non sta navigando in ottime acque sul fronte dei conti pubblici con una riduzione del PIL dello 0,8 allo 0,2%, e tutto ciò che è burocrazia invece, l'eliminazione, la semplificazione di tutto ciò che è costo e onere burocratico, è a costo zero per lo Stato. Cioè, permettere alle imprese di avere i controlli dopo che hanno avviato l'attività, o come diremo adesso anche lo sdoganamento in mare come avviene in molti paesi, o i controlli dopo che la merce è arrivata, sono a costo zero per lo Stato, ma hanno un grosso vantaggio competitivo per le nostre imprese. Tutto qua. Allora, buone notizie arrivano, ma dall'economia americana. Il PIL americano è cresciuto oltre le attese, addirittura le agenzie dicono è volato oltre le attese, più 4%, e devo dire che da questo punto di vista a trainare il PIL americano sono stati soprattutto i consumi, più 2,5%. Eh sì, perché le spese delle imprese sono aumentate del 6%, le esportazioni americane hanno fatto più 9,5%, le importazioni però hanno fatto più 11,7%, a dimostrare che comunque c'è una vitalità anche sul fronte delle merci e dei servizi importati. Questo dato non dovrebbe influenzare la Banca Centrale Americana, che oggi comunicherà le proprie decisioni in politica monetaria, e l'attesa è di un nuovo freno agli aiuti, quindi allo stampaggio di moneta, come lo chiamiamo noi, nel senso che la Banca Centrale Americana ridurrà di altri 10 miliardi gli acquisti di asset, portandoli a 25 miliardi di dollari. Per quello che riguarda invece l'Argentina, vedo molti di voi che ci chiedono informazioni, abbiate pazienza, ne parleremo tra un attimo. Secondo il Wall Street Journal, le banche di Buenos Aires sarebbero pronte ad aiutare il governo contro il rischio default. Le agenzie di rating hanno già detto che se arrivasse default chiaramente taglierebbero il voto all'Argentina. Tutte le banche hanno confermato in Argentina trattative per dare una garanzia agli hedge fund di avere almeno una specie di sospensione, di proroga fino a dicembre. Ripeto, nelle ultime 24 ore vi sono state intense trattative tra la Banca Centrale di Buenos Aires e l'Associazione delle Banche Nazionali per riunire la somma che garantirebbe poi un accordo, anche se la Banca Centrale Argentina ha smentito questa versione. La Gran Bretagna, la banca centrale inglese, ha lanciato oggi nuove misure contro i banchieri scorretti, e sono punizioni durissime, perché secondo la BBC praticamente, se nel regime introdotto dalla banca centrale sarà prevista intanto la restituzione dei bonus da parte dei top manager, fino a 7 anni di bonus da quando sono stati pagati per cattiva condotta, perdite, gestione errata del rischio e altri comportamenti che abbiano danneggiato l'impresa e i suoi clienti. Quindi i banchieri, se accusati di appunto cattiva condotta, perdite, gestione errata del rischio, dovranno restituire tutti i bonus da 7 anni prima, e in base alla nuova norma saranno obbligati a restituire i premi ricevuti anche se li hanno già spesi. Quindi non si può dire ho comprato la barca, la casa e non li ho più questi soldi. Le nuove misure prevedono anche nei casi più gravi il carcere fino a 7 anni per i manager, e questo arriva a 2 giorni dal caso della banca Lloyds, che è stata condannata a pagare in Inghilterra una multa per 275 milioni di euro per la manipolazione del tasso Libor, la vicenda in cui alcune banche si erano messe d'accordo per fissare quindi con, diciamo, sostanzialmente un concerto per tenere a un certo livello il tasso Libor, che è quello che serve per regolarsi come riferimento per i mutui sulla casa, per i mutui bancari sulla casa. Veniamo all'Italia. La Cassa Depositi e Prestiti ha istituito un plafond da 10 miliardi di euro finalizzato ad accelerare i pagamenti dei debiti da parte della pubblica amministrazione alle imprese. Sostanzialmente la Cassa Depositi e Prestiti potrà, a questo punto, dopo la firma di una convenzione con l'ABI, con l'Associazione delle Banche Italiane, acquisire i crediti dalle banche o dagli intermediari finanziari e poi ridefinire in favore della pubblica amministrazione termini e condizioni di pagamento dei debiti, quindi fa da intermediario tra le banche e la pubblica amministrazione. E poi c'è una novità che invece è tutt'altro che positiva, spero che sia un errore. Il governo intende aprire modifiche al decreto competitività, quello già approvato al Senato con il voto di fiducia, adesso è all'esame delle commissioni ambiente e industria della Camera. Però, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, l'intenzione è di abrogare alcune norme contenute nel testo del provvedimento. Tra queste, ma spero che sia una svista, anche l'ipotesi di cancellare la doppia soglia dell'OPA, la disposizione su poste e in particolare l'eliminazione del tetto agli stipendi dei manager della pubblica amministrazione, quello da 240.000 euro. Sarebbe veramente clamorosa una retromarcia del Parlamento dopo la decisione del governo su questo, che ne ha fatto un elemento anche di campagna elettorale. Uno può essere d'accordo o no, ma insomma una retromarcia non sarebbe un bel segnale per il tetto dei manager della pubblica amministrazione. Le disparità nel paese, perché lo dico? Perché oggi ci sono 2 rapporti su questo, uno è quello dello Svimez, già ci siamo occupati dello Svimez la scorsa settimana, però insomma lo Svimez oggi fotografa un sud d'Italia che è a rischio desertificazione industriale ed anche umana. In 5 anni nel nostro sud sono più che raddoppiate le famiglie assolutamente povere, meno di 6 milioni di occupati, ossia siamo al tasso di occupazione più basso da quando lo misuriamo, dal 1977. Qui altro che era ancora periodo di emigrazione per alcuni casi, quindi non sappiamo se il tasso di occupazione sia più basso anche dal 67 o dal 57. Da quando lo misuriamo non ci sono mai stati così pochi occupati al sud, per la prima volta sotto i 6 milioni, 5 milioni 800 mila, bruciato il 13,3% del PIL. Il divario tra ricchezza pro capite tra nord e sud è tornato indietro di 10 anni, ma soprattutto, sempre lo Svimez fa notare, che l'80% dei nuovi disoccupati si sono creati al sud, e che al sud in 5 anni le famiglie assolutamente povere, quelle che hanno meno della metà del reddito medio disponibile, sono aumentate di 2,5 volte, da 443.000 a 1.014.000. E questo dato fa il paio con il dato dell'Istat di oggi sulle pensioni. Perché? Perché in questo paese, se abiti al mezzogiorno e sei donna, hai 2 condizioni di svantaggio, uno potrebbe dire anche 2 sfighe, nel senso che le pensioni erogate alle donne in Italia sono in media di 9.000 euro, 8.965 euro, contro i 15.000 euro degli uomini. E tra l'altro le donne che hanno la pensione sotto i 1.000 euro sono più del 50%, mentre negli uomini le pensioni sotto i 1.000 euro sono solo del 30%. a questo proposito, domani vediamo se viene il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, torna con noi Ardizzone, che ci aveva promesso grosse novità da questo punto di vista. Però ci sono dei dati che riguardano proprio l'Assemblea regionale siciliana, che domani discuteremo se vorrà anche con Ardizzone, alla luce dei dati che abbiamo appena letto sulle pensioni in questo paese. Perché mentre abbiamo più di metà delle donne con meno di 1000 euro e abbiamo soprattutto sostanzialmente una media delle donne a 9000 euro, i maschi a 14000 euro, comunque un 30% di pensionati maschi che vivono con meno di 1000 euro, nel Parlamento siciliano siamo ancora al livello dei baby pensionati. La sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues. Allora, un grande rientro, Rino Gaetano, un po' che non lo utilizzavamo, però insomma sta arrivando l'estate, perlomeno da un punto di vista del calendario, non certo da un punto di vista meteorologico. Perché dicevo che l'Assemblea regionale siciliana ci dà sempre grandissimi spunti? Perché a fronte di questi dati e soprattutto dei dati drammatici dell'impoverimento nel nostro mezzogiorno, appunto lo Svimez che parla di desertificazione umana e industriale, le imprese chiudono, i lavori saltano, le persone emigrano. Se avanti così resteranno solo i consiglieri regionali delle regioni del nostro mezzogiorno, i parlamentini, i dirigenti di queste assemblee, non si capisce poi per gestire che cosa. Perché abbiamo già raccontato anche del mitico Sebastiano Di Bella, famoso per lo stipendio da 1500 euro al giorno, 600.000 euro l'anno, che preso da un impeto di moralizzazione ha deciso che se ne andrà. Ma poi abbiamo scoperto che lui se ne va perché va in pensione a 61 anni e godrà di un trattamento senza nessuno sconto. Perché questo Di Bella è un mito? Perché lui, dopo aver guadagnato tutta questa cifra, non è che ha chiesto scusa, ha detto ma sapete in effetti è troppo, no, ha detto che va in pensione. E ha avuto anche detto, e il presidente Ardizzone ha detto: so che ci saranno polemiche, ma ringiovaniamo i quadri dirigenti. Sì, li ringiovanisci mandando in pensione uno che becca una pensione stellare e quindi va in pensione anche a 53 anni, e perché è assunto prima dal 98 e ha una sufficiente anzianità contributiva. Perché all'Assemblea regionale siciliana valgono le stesse regole del Senato, dove la riforma Fornero, perché a noi, a tutti voi, la riforma Fornero si è applicata, ma al Senato in forma light, e quindi in forma light anche all'Assemblea regionale siciliana. Quindi se sei assunto prima del 98 e hai sufficiente anzianità contributiva vai in pensione anche a 53 anni. Insomma, ma non è solo Sebastiano Di Bella, in pensione a 53 anni con un assegno di 240.000 euro l'anno, che poi fa media, andranno almeno 10 dipendenti dell'Assemblea regionale siciliana e potranno vivere, cioè pensate che questo assegno di 240 è esattamente la soglia messa per i dipendenti, per i manager. Comunque bello vivere insomma una terza età, anche la prima, con 240.000 euro. E infatti, dopo aver approvato con molta fatica il tetto a 240.000 euro, arriva l'escamotage, perché se si fa subito richiesta in questi giorni, il trattamento pensionistico non subisce decurtazioni. Entro il 13 d'agosto potranno chiedere di andarsene e fino al 31 avranno la facoltà di tornare sui propri passi tutti quelli che hanno raggiunto questi requisiti, cioè 53 anni con i contributi versati, e dal 1 ottobre saranno pensionati. Quindi entro il 13 possono fare domanda, possono ripensarci entro il 31, e se non ci ripensano a ottobre in pensione, 10 dei quali con 240.000 euro l'anno. E vai così. Vabbè, allora invece ancora una notizia e poi andiamo in pausa meteo. l'autorità, andiamo sulla parte seria, il presidente Cantone dell'autorità anticorruzione sull'Expo, oggi importante conferenza stampa dove Cantone ha presentato la sua squadra ma ha anche chiarito come l'autorità anticorruzione cercherà di non rallentare i lavori dell'Expo, ma i controlli saranno seri, posso aggiungere più seri, visto quello che è successo in questi mesi. I lavori fervono e ce ne sono ancora tanti in corso. Certo c'è moltissimo ancora da fare, il cronoprogramma è molto stretto e noi in questo senso ovviamente i nostri controlli cercheranno di non incidere sul cronoprogramma, ma una cosa è certa, noi faremo controlli seri, cioè l'idea che il tempo possa essere impedimento ai controlli, ovviamente questo non va, cioè noi faremo in modo che i nostri controlli non aumentino i tempi, ma i controlli ci saranno fino in fondo. Che molti fanno notare, è verissimo che le pensioni di reversibilità in molti casi vanno alle donne, gli uomini schiattano prima, adesso gesti scaramantici a go-go. Però è vero anche che in alcuni casi sono pensioni di vecchiaia, infatti non ero sorpreso dal dato di donne che hanno pensioni mediamente almeno la metà di quelle maschili. Era però interessante notare il dato aggregato, cioè la media sotto i 9.000 euro per una donna e poi intorno ai 15.000 euro per un uomo. È verissimo che in molti casi le pensioni di reversibilità vanno alle donne e non agli uomini. Ci mancherebbe. Sui 240.000 euro cosa volete che vi dica? Cioè è permesso dalla legge, c'è l'escamotage. Vediamo domani se l'addizione viene a spiegarci anche questa cosa. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni, la borsa appena chiuso meno 0,94%, poche novità oggi sui titoli, poi li commenteremo, anzi facciamo subito, ve lo faccio io il commento di borsa, dovete arrangiarvi o accontentarvi più che arrangiarvi oggi perché pochi gli spunti in borsa, presi di beneficio su UX meno 2,50%, i conti comunque verranno diffusi stasera. Finmeccanica invece salita anche perché più 0,90%, il tribunale di Busto Arsizio ha archiviato il procedimento sulla fornitura di elicotteri all'India e questo potrebbe avere un possibile effetto positivo sull'arbitrato internazionale. Le banche oggi, bene la Pop Milano più 1,5% e poco altro, Monte dei Paschi più 0,60, Pop Emilia Romagna più 0,50. Tra i bancari direi che è finita lì, perché poi invece altri titoli in Mediobanca perde l'1,30%, sono poco mossi Ubibanca meno 0,60, Intesa meno 0,50 come Unicredit. Certo su Unicredit resta il dubbio, cioè resta da capire che cosa farà della controllata Pioneer che potrebbe essere ceduta. Sul Monte dei Paschi ci sono stati parecchi movimenti, il titolo comunque ha guadagnato lo 0,66% dopo che ieri si è saputo che il fondo York Capital ha il 5% della banca. E poi la vicenda Telecom Italia. Non tanto per il titolo, meno 0,40%, ma resta un dossier caldo. Tra l'altro oggi su Sole 24 Ore si ipotizza che a settembre potrebbero essere cedute le torri, i ripetitori e quindi uno degli asset infrastrutturali di Telecom Italia. Delusione invece per i conti Fiat, il titolo ne risente, meno 2,1%, devo dire debole oggi anche Eni, meno 2,12%, e Mediaset meno 2% come World Duty Free, Exor la controllante di Fiat meno 1,90%, Luxottica meno 1,70%, Atlantia meno 1,60%, Prismian meno 1,50% come Terna e Mediolanum. La trimestrale Fiat, si diceva, conti in calo e delusione degli analisti, anche se non tremenda. Comunque l'utile netto di Fiat cala 197 milioni di euro nella trimestrale, nel secondo trimestre. I ricavi sono in crescita del 5% a 23 miliardi e 300 milioni. L'indebitamento netto industriale del gruppo Fiat Chrysler è sceso a 9 miliardi e 700 milioni di euro e il gruppo ha confermato i target 2014. Sulle alleanze, oggi Sergio Marchionne ha detto: noi da sempre siamo aperti a discutere con chiunque, lo abbiamo sempre detto, non c'è nulla di nuovo, non ho nulla da aggiungere sulle voci di un'alleanza con Volkswagen o con il gruppo Peugeot, abbiamo smentito queste voci, quando ci sarà qualcosa da dire lo diremo noi, chiaramente. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Dicevamo della struttura portuale italiana, di un'ennesima opportunità che questo paese non sa sfruttare, un po' come i giacimenti artistico-culturali, il nostro oro o petrolio. Ebbene, anche la nostra posizione geografica dovrebbe rappresentare un enorme vantaggio, visto l'aumento del traffico dei cargo e visto che il 20% di tutti i cargo al mondo transitano nel Mediterraneo. Eppure noi questo vantaggio geografico, cioè quando esci dal canale di Suez, una delle prime cose che incontri, volente o nolente, è la Sicilia, per dirla in maniera un po' banale, la Sicilia, la costa calabrese, non riusciamo a sfruttarlo, tant'è che le merci, anche quelle che devono arrivare in Italia e anche quelle che servono alle imprese italiane, spesso sbarcano ad Anversa, ad Amburgo, nei porti del nord. Ci occupiamo di porti, del sistema portuale italiano, perché potrebbe sbloccarsi, ma per ora ancora in stallo la riforma dell'intero sistema. Il governo l'ha comunque messa in cantiere, è previsto nel disegno di legge Sblocca Italia, ed è un testo che prevederebbe la diminuzione da 24 a 14 delle cosiddette autorità portuali, port authorities, trasformandole in distretti, quindi con compiti più ampi, chiamati autorità portuali logistiche, e quindi dovrebbero, oltre che essere accorpate le autorità portuali, anche avere un ruolo più importante di coordinamento nella parte del retroporto, cioè la logistica, quando le merci arrivano devono poi essere caricate o sui camion o sui vagoni, e potrebbe essere il piano appunto inserito nel decreto Sblocca Italia, che dovrebbe essere approvato a giorni, ma vediamo anche cosa succederà con il calendario parlamentare. Il settore, comunque, insomma, l'economia marittima italiana dà lavoro a 500.000 di persone, vale circa il 3% del PIL, sono quasi 45 miliardi di euro. Noi scambiamo con il resto del mondo merci per 230 miliardi di euro, e faccio notare che via mare transita l'80% di tutto il commercio mondiale. Sono 480 milioni di tonnellate di prodotti che approdano ogni anno sulle banchine italiane, però solo il 4,5% di tutte le merci che transitano dal canale di Suez, e quindi che arrivano dall'Asia, approdano in Italia, anche perché le aziende, comprese quelle italiane, spesso preferiscono gli scali del nord Europa a causa dei ritardi e delle incertezze sui tempi di transito che si registrano nei nostri porti e nell'aspetto anche della logistica. E infatti la classifica vede saldamente a livello europeo il primo porto per transito, resta Rotterdam, 11 milioni e 600 mila TEU, i TEU è l'unità di misura, sono i container, quelli da 20 piedi. Seguono Amburgo, Anversa, Bremerhaven, Algeciras, Valencia, e poi solo al nono posto compare il primo scalo italiano, Gioia Tauro, con 3 milioni e 100 mila TEU, quindi stiamo parlando di una cifra che è più di un terzo, e meno di un terzo di quella di Rotterdam. Poi segue al 15° posto Genova e al 18° La Spezia. Ma insomma, che serve un ammodernamento non solo della rapidità dei tempi delle certezze sui tempi di transito, ce lo dice anche la rivoluzione che sta attraversando il settore del trasporto merci via cargo, via nave. Le navi sono sempre più grandi. Si passa da navi che tenevano tuttora 6.000 container imbarcati a navi che ne imbarcano 18.000, Poi ne abbiamo già ragionato sul canale di Panama, il Super Panama. E la concentrazione del controllo dei traffici nelle mani di un ridottissimo numero di compagnie ormai, che sono sostanzialmente la Maersk, la MSC di Aponte, anche se ha sede in Svizzera, e la CMA CGM. Ora, se le navi sono più grosse, lo capisce anche un bambino, gli scali devono essere ammodernati, nel senso che devono avere almeno 18 metri di profondità, di fondale, ed enormi bacini di manovra. Noi è 12 anni che parliamo della riforma dei porti e l'abbiamo fatto in questi anni anche a Focus Economia. Vediamo se ci stiamo arrivando. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Assoporti, Pasqualino Monti, nonché presidente del porto di Civitavecchia. Buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. E grazie anche al presidente di Federagenti, che sono gli agenti marittimi che rappresentano a loro volta le compagnie di navigazione. Michele Pappalardo, buonasera anche a lei. Buonasera a lei, al presidente Monti e a tutti, buonasera. Allora, Monti, dicevamo, insomma, forse ce la facciamo. In realtà qui non si tratta solo di ridurre le autorità portuali, che comunque sempre bene fa, ma di dare un nuovo ruolo a queste autorità portuali. Sì, guarda, innanzitutto faccio una premessa, un caro saluto a Michele Pappalardo, presidente della Federagenti. Lei ha fatto una sintesi prima, che è un disegno molto preciso e molto chiaro di quella che è, di quello che è il settore marittimo nel nostro paese, delle difficoltà che sta vivendo, non perché non sia o non possa essere una straordinaria risorsa per l'intero sistema economico del paese, ma semplicemente perché forse non abbiamo avuto la capacità negli ultimi 10 anni fare sintesi e quindi di realizzare quelle norme che consentano ai porti di adeguare le proprie infrastrutture e non solo per attrarre nuovi traffici. Il decreto legge Sblocca Italia, chiaramente noi ci auguriamo che possa prendere vita nel più breve tempo possibile, ma che non sia solo ed esclusivamente fatto e visto come una mera operazione di spesa per la riduzione del numero delle autorità portuali, ma porti al suo interno invece delle norme ben chiare che consentano alle nuove autorità portuali e logistiche di andare sul mercato, di essere efficienti ed efficaci e quindi essere in grado poi di finanziare, di realizzare infrastrutture. Lei ha detto giustamente che il gigantismo navale è una realtà ormai consolidata. È chiaro che non tocca solo il settore del mercato dei contenitori. Poi abbiamo il mercato passeggeri, abbiamo il mercato certo. Autostrade del mare, non tutte le merci chiaramente si muovono in contenitori, in TEU. Il problema è che il gigantismo navale è una realtà comune a tutti questi settori, quindi le navi da crociera diventano sempre più grandi, le navi da autostrada diventano sempre più grandi e quindi le nostre infrastrutture sono rimaste al palo a 10 anni fa. Qua chiaramente il naviglio aveva dimensioni e pescaggi decisamente diversi da quelli attuali. Abbiamo una situazione del paese nel quale le diverse modalità di trasporto, ahimè, non dialogano tra loro, quindi abbiamo disconnessioni molto evidenti e molto chiare tra i porti e i loro retroporti, gli interporti, gli aeroporti, la rete autostradale, la rete ferroviaria, laddove ferrovie e cargo purtroppo per molti anni è stata limitata nelle sue funzioni, perché giustamente questo non sta a me dirlo, si è puntato molto sull'alta velocità. Questi sono gli aspetti sui quali bisogna lavorare. Fare sintesi significa non guardare tanti piccoli orticelli, ma fare un piano industriale dell'intero sistema per raggiungere quell'obiettivo, che è un obiettivo insomma comune, che può far crescere il nostro prodotto interno lordo. Ma lei come se ne immagina il ruolo dell'autorità portuale alla luce della riforma del decreto Sblocca Italia? Cioè voi avvocate un ruolo che non sia solo lo sbarco, la manovra della nave, quindi la capacità di accogliere questi supercargo, lo sbarco delle merci. Le autorità portuali oggi regolamentano e controllano il mercato, gestiscono i beni del demanio dello Stato e realizzano infrastrutture in qualità di stazione appaltante. Noi ci auguriamo che possano anche al di fuori del demanio marittimo e quindi nel momento in cui si disegna un piano regolatore portuale, sia una governance delle autority che sia disconnessa da lacci e lacciuoli burocratici totalmente inutili, le autorità possono guardare al loro retroporto e quindi fare un piano di sistema che chiaramente coinvolge sia la rete ferroviaria, sia la rete autostradale, sia gli interporti, per avere contezza e tener conto di quello che è il regolamento europeo, e noi ci auguriamo rimanga il regolamento, sulle reti TEN, e quindi capire come si muovono le merci e cercare di realizzare le infrastrutture, ma di non farle fermare perché o di non farla arrivare perché il problema è l'ultimo miglio, ma avere le connessioni che servono direttamente e portano le merci dal nostro, dalle porte d'ingresso, che sono i nostri porti, ai mercati di consumo interni. Mi scusi, ma da questo punto di vista poi il coordinamento tra voi come autorità portuali, le ferrovie dello Stato, per esempio, necessiterebbe di una cabina di regia, a mio avviso, a un certo momento, perché sennò poi chi ha l'ultima parola? Sì, certo, questo è previsto nello Sblocca Italia. È chiaro che noi abbiamo chiesto di evitare che ci siano comitati portuali, che sono un po' il consiglio di amministrazione, autorità portuali molto numerosi, ma fare un consiglio direttivo che sia formato da cinque enti, la regione, il comune di appartenenza, l'autorità marittima, l'autorità portuale e il Ministero delle Infrastrutture. Avere un piano nazionale dei trasporti che sia centrale, portare tutti i diversi piani industriali all'interno del piano nazionale dei trasporti e poi realizzarlo. Una parte con project financing pubblico-privato, una parte con finanziamenti pubblici tramite il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Il CIPE, ma secondo lei cos'è che blocca il Ministero? Il fatto che non vuole tirare fuori soldi, perché con questi chiari di luna su crescita economica e deficit teme che questi soldi poi non vengano, non abbiano poi un ritorno immediato? Guardi, lo sviluppo della portualità ci ha insegnato una cosa: la legge 84-94 del 1994 ha avuto dei risultati straordinari in termini di prodotto interno lordo, in termini di ritorno dall'investimento, forse il più alto in termini percentuali di qualsiasi altro settore a livello nazionale. Quindi abbiamo già un'esperienza maturata alle spalle. Questa esperienza ci dice che investire nelle nostre infrastrutture portuali ha certamente un ritorno assicurato. Ora, è chiaro che i tempi sono cambiati, sono passati 10 anni, le leggi di finanziamento dello Stato, lo Stato non ha più soldi, non investe più nelle proprie infrastrutture portuali e quindi quella legge ha interrotto bruscamente la propria spesa. Però mi scusi Presidente, tutto giusto, perché noi siamo da sempre per una maggiore sinergia, coordinamento e anche accorpare le varie autorità, però se poi le imprese italiane scelgono spesso gli scali del nord Europa perché dicono che ci sono ritardi e incertezze sui tempi di transito, forse, mi scusi, faccio la domanda però, forse qualche responsabilità ce l'avete anche voi? Ma per carità, bisogna guardare i numeri, poi è chiaro che ci assumiamo tutte le responsabilità, forse in qualcosa abbiamo sbagliato anche noi, ma questo non significa però che nella media nazionale i porti siano cresciuti in maniera straordinaria negli ultimi anni. Poi è chiaro che se il legislatore non ci mette le condizioni di poter operare, purtroppo, ahimè, i risultati vengono meno. Ad esempio, all'interno del porto non è pensabile che per sdoganare una merce servono 18 timbri, ma non è l'autorità portuale che sdogana le merci, è l'agenzia delle dogane che forse dovrebbe essere messa nelle condizioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di operare e di permettere i controlli sui territori, quindi sdoganare le merci. Lei mi ha parlato dei porti del nord Europa, è chiaro che quando sdoganano le merci, le sdoganano già in mare, arrivano e noi abbiamo addirittura merci che arrivano e che toccano i nostri mercati di consumo, ma che vengono sbarcati ad Anversa, a Rotterdam, piuttosto che a Hamburgo, la dice lunga su quello che sono... Cioè lei mi sta dicendo che merci che devono poi arrivare in Italia come importazioni magari... Certo. Arrivano a Rotterdam o Anversa anche perché loro riescono a sdoganarle quando sono ancora in mare? Esatto, con una velocità decisamente mentre da noi devono arrivare, devono essere scaricate dal cargo, arrivare in banchina e a questo punto avviene tutti i 18 passaggi e 18 autorizzazioni necessarie per lo sdoganamento. Ma certo, ma se il fitopatologo, le faccio un esempio classico, quando arriva una merce che deve essere controllata al fitopatologo nel porto di, faccio un esempio così per caso, a Spezia, e il fitopatologo deve arrivare da Savona, ma è chiaro che impiega 2 giorni, 3 giorni, dice no va bene, arrivo fra un paio di giorni. Ora, il mercato questo non ce lo consente più. Beh, vede, qua già c'è uno spaccato che delle volte, anche andando a raccontare casi dettagliati, c'è lo spaccato delle riforme o della sburocratizzazione a cui facevo riferimento all'inizio programma a costo zero. Quindi non è un problema di toccare i conti, le entrate fiscali. A 7:50 minuti. Allora, Presidente Pasqualino Monti, per tornare al caso concreto e far capire a tutti, lei citava il caso del fitopatologo che ci mette 2 giorni magari ad arrivare e allunga i tempi di transito di alcune merci. Insomma, cosa chiedete? Non che vengano aboliti i controlli, anche perché gli altri paesi come fanno? Ma ad invarianza delle norme molti porti si sono attrezzati per fare il pre-clearing in mare, però è chiaro che la normativa deve essere più snella, cioè ad esempio permettere all'agenzia delle dogane di fare i controlli sul territorio, quindi quando la merce è già sdoganata. Oggi lo Stato non riesce a comprendere che sdoganare la merce significa incamerare IVA. Poi i controlli che vanno fatti sono necessari, per carità di Dio, è meglio spostarli dall'area portuale al retroporto, però bisogna fare chiaramente un'operazione di sistema, perché i controlli fatti sul territorio sono comunque controlli che vengono fatti e non effettuati, ma la merce però viene sdoganata e viene sbarcata nei nostri scali, che comunque hanno la necessità in molti casi di essere adeguati. La selezione della spesa è qualcosa di fondamentale, non si può più continuare con soldi a pioggia dati a tutti, bisogna avere un piano di sistema nazionale che chiaramente tenda a finanziare quelle opere infrastrutturali che sono richieste dal mercato. Qui a me sembra che negli ultimi 10 anni il mercato sia una variabile sconosciuta, cioè si sia deciso di finanziare quello che si poteva finanziare, ma così, senza avere contezza. Quindi anche all'interno dei 24 porti lei dice scegliamone 4, 5, 3, non sta a me dirlo. Puntiamo su quelli, ovvio che a me viene in mente Gioia Tauro, Genova e La Spezia perché sono i primi posti, ma magari anche altri, non disperdiamo i soldi a pioggia. Vorrei sentire su questo anche chi è il vostro cliente e quindi Federagenti, agenti marittimi che rappresentano le compagnie di navigazione. Pappalardo, è questo il tema? Sì, sostanzialmente questo è il tema, quello che ha anticipato il Presidente Monti, col quale ricambio i saluti, innanzitutto allora, è sottoscrivibile, con certi distinguo. Noi siamo sempre stati estremamente critici sulla poca reattività che ha avuto la legge 3494, che non si è mai confrontata con quelli che sono stati i passaggi epocali che abbiamo negli ultimi tempi, quindi e poi è nata come un'ottima legge e poi un po' alla volta ha perso smalto e purtroppo i correttivi non sono venuti nei tempi necessari e oggi stiamo affannando e correndo dietro cercando di recuperare il gap che è stato illustrato prima, che abbiamo con i porti del nord Europa. Io volevo aggiungere un dato a quello che lei ha detto prima nella sua introduzione, quando ci ha ricordato che di quelle merci che passano attraverso il canale di Suez solo il 3-4% poi usa i porti italiani. Volevo aggiungere che dell'80% del traffico mondiale, che giustamente lei prima ha citato, il 20% passa attraverso il Mediterraneo, quindi una quantità enorme di merci. Se solamente si immagina che chiunque voglia attraversare il Mediterraneo prima o poi sbatte contro la piattaforma Italia, questo dovrebbe stare a significare la potenzialità che hanno i nostri porti, la posizione strategica che hanno i nostri porti e che purtroppo è stata molto spesso non compresa e non capita. Quali sono le nostre problematiche oggi e che cosa ci aspettiamo che venga da questa nuova legge, da questa riforma che dovrebbe uscire fuori col decreto sblocco Italia? Noi abbiamo due grosse problematiche nei nostri porti. Uno è di carattere strutturale e tra le infrastrutture, tra le carenze infrastrutturali, ci metta forse probabilmente prima in lista la questione dei dragaggi. No, dragaggi ho capito, la prima che ha detto qual è, mi scusi? Ho detto abbiamo una carenza strutturale, sì, e tra le quindi carenza di infrastrutture chiaramente, e quindi prima in lista ci metta... Prima in lista, ho capito, sì, i dragaggi. Prima in lista, sì, la questione dei dragaggi. Soprattutto considerando quello che si è detto prima sulle meganavi, capirà bene che è diventata questione veramente di vita o di morte. Cioè noi oggi o ci rassegniamo ad essere, ad avere un ruolo di secondo piano, cioè di fileraggio, di sponda, chiamiamola così, ma se vogliamo ritagliarci ancora un ruolo importante, un ruolo di porto che stia anche a hub nel Mediterraneo e quindi che possa recepire merce che non è destinata solo all'Italia ma che poi possa essere convogliata negli altri porti europei, dobbiamo assolutamente adeguarci di infrastrutture moderne e diciamo in relazione a quelle che sono le caratteristiche tecniche del nuovo avvio. E questa, le carenze infrastrutturali, quindi il problema strutturale dei nostri porti, è relativo a tutta la merce, non faccio distinzioni. Bene, prima il Presidente Monti quando ha richiamato l'attenzione sul fatto che non si tratta solo di contenitori. noi in Italia movimentiamo nei nostri porti 500 milioni di tonnellate l'anno. Mi scusi, devo interrompere perché abbiamo un aggiornamento sull'Argentina, poi il discorso lo riprenderemo anche nei prossimi giorni e poi vedremo cosa capiterà al decreto sblocca Italia. E allora adesso rapidissimo, in due minuti che ci restano, il tema dell'Argentina, e vediamo se si sta arrivando a un accordo. Grazie a tutti gli ospiti intanto. Vittorio D'Arold, si va all'accordo oppure da mezzanotte ora americana alle 6 di mattina ora italiana l'Argentina dichiara il default? È possibile anche un default tecnico questa volta, perché se non arriva l'accordo oppure una sospensiva della sentenza che obbliga l'Argentina a pagare gli hedge fund che reclamano 1,33 miliardi di dollari, si potrebbe arrivare a un default tecnico che consentirebbe a Buenos Aires di non pagare gli hedge fund, i cosiddetti fondi avvoltoio, e creare le condizioni poi per pagare successivamente con una situazione molto più bassa e magari pagare in bond questi crediti. Questo consentirebbe di non riaprire tutta la litigiosa vertenza dei ristrutturati precedenti, e allora sì che sarebbero dolori per Buenos Aires. Però il default tecnico vorrebbe dire che, non ho capito, è in default, è in fallimento, non riesce a pagare i debitori. Sì, non li paga, ma volutamente, cioè nel senso che avrebbe i 30 miliardi di riserve valutarie per farlo, perché gli hedge fund vogliono 1,33 miliardi, quindi poca cosa, non è quello il problema. Ma se pagano questi hedge fund si riapre tutta la vertenza con gli altri, perché avrebbero diritto a richiedere anche loro il pagamento di tutto il valore facciale. Quello sarebbe veramente il default non tecnico, ma effettivo. Grazie a Vittorio D'Arold, chiedo scusa per la fretta, ma il programma d'estate dura fino alle 18. Da Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.